Dentro non c'è più, come onde si infrangono i pensieri contro il cuore mio. Vita che scorre senza me, non so perché, mare dentro. Mare dentro non c'è più, mare dentro.